No, no, se parte mi chiamo Sonny, sono marrone, sono romano e non ho la cittadinanza. Ok, il marrone è un bel colore, non avere la cittadinanza diciamo che ti fili. Allora aspetta, senza cavi. Allora, vi racconto un po' di me. Io sono nato a Roma, da genitori nigeriani, ho frequentato le scuole qui a Roma, elementari, liceo, medie, superiori, università, ho stato tutto qui. Ho giocato a basket, ho rappresentato l'Italia ai campionati internazionali di danza all'estero, la bandiera italiana, solo io. Io e un altro ragazzo nero, i paradossi dell'Italia. E come ballerino lavoro e come autore nei programmi televisivi di inchieste italiane. Insomma, come dico sempre, io parlo italiano, mangio italiano, vivo italiano. E direte voi, allora sei italiano, giusto? E no, non è così semplice. Diciamo, per quale motivo? Rispondere che il problema è a causa delle leggi di questo paese mi sembra una risposta un po' semplicistica. Oggi io sono qui per spiegarvi per quale motivo le persone come me, che sono nate o cresciute nel nostro paese, non possono accedere così facilmente alla cittadinanza italiana. Allora, la legge attualmente vigente in materia di cittadinanza è la legge 91 del 1992. Molti di voi l'avranno già sentita nominare mille volte, miliardi probabilmente di volte, immagino. Bene, l'articolo 4,2 della legge 91 del 1992 afferma che, leggo testualmente, lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino, anzi, la rileggo così perché forse la capite meglio, lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, virgola, diviene italiano se dichiara entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, virgola, di voler acquisire la cittadinanza, virgola, davanti all'ufficio di Stato civile e del comune di residenza. Sì, lo so, sembra più le istruzioni da un videogioco online, ad esempio corri fino all'arrivo senza farti ammazzare, salta il percorso, arriva alla fine, libera la bicicletta, sconfiggi il mostro. In realtà non sono le istruzioni di nessun gioco online, sono le nostre vite. È la legge che regola l'accesso ai nostri diritti fondamentali. Vi racconto una cosa. Al compimento dei 18 anni normalmente dovrebbe arrivarvi una comunicazione, ok, che vi invita a fare domanda per la cittadinanza italiana. Beh, immaginate com'è andata? A me a 18 anni non mi è arrivato niente, non mi è mai arrivato niente, né a 19, né a 20, né a 30. Fortunatamente ce ne accorgemmo in tempo, ma quando andammo negli uffici preposti, l'unica cosa che riuscirono a fare è quella di far sentire in colpa a me e mia madre, come se la colpa fosse nostra, o magari mia, o magari di mia madre, che mi aveva partorito qui, in Occidente, nella patria della civiltà, dall'altra, che Roma è Occidente, il resto d'Italia non lo so ancora. Allora, casi isolati ci chiamano, ma non siamo casi isolati. Molte facce che vedo qui dimostrano che noi siamo tantissimi. Non siamo casi isolati. Prima vi ho parlato di chi nasce come me in Italia, ma anche la situazione di chi qui ci arriva, chi qui ci cresce, chi arriva qui da piccolissima o da piccolissimo, non è che sia tanto diversa, non è che sia tanto migliore. In pratica non è previsto per loro, ossia per gli altri italiani senza cittadinanza, ma non nati all'interno dei comuni delle città italiane, nessun percorso ad hoc, ed è assolutamente necessaria una riforma che tolga innanzitutto la pistola alla tempia del reddito. Perché parlo del reddito? Qualcuno di voi lo sa perché parlo del reddito? Lo spiego subito. Perché chi richiede la cittadinanza italiana ha l'obbligo di dimostrare 8.236,61 euro nell'anno in corso. Allora, per accedere alla cittadinanza italiana e anche ad altri documenti burocratici è 8.236,61 euro l'anno in Italia. La stessa Italia in cui 8.236,61 euro l'anno ne fa neanche uno dell'età mia italiano bianco da generazioni. La stessa Italia con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 30%. La stessa Italia che non garantisce un lavoro neanche ai giovani, che chiama suoi figli e che riconosce. Tutto questo viene aggravato ancora di più dalla situazione della pandemia, perché la condizione della presentazione del reddito non è cambiata, neanche in pandemia, neanche in questo anno e mezzo così importante per tutti. Per non parlare poi di quei quasi 900.000 alunni e alunne di passaporto straniero, nati e o cresciuti in Italia, che vivono nelle nostre scuole, nelle scuole italiane, e del 1.078.000 minorenni senza cittadinanza italiana iscritti alle anagrafi comunali, come quella che ci abbiamo qua vicino, anagrafe centrale. La situazione è molto grave, la situazione è molto grave, e tutti noi di origine straniera, di origini familiari straniere, noi figli di immigrati e anche i nostri genitori, non possiamo più aspettare. Leggi e apparati burocratici discriminatori stanno rendendo la vita di tutti impossibile, ma dobbiamo ribadire insieme e in ogni occasione che le nostre vite contano, le nostre vite contano e devono contare sempre di più le nostre vite e quelle dei nostri genitori, e che non accettiamo più di aspettare ad esempio per la sanatoria del 2020 o per i rinnovi dei permessi di soggiorno o per un cambiamento della legge di cittadinanza. Quello che ci aspettiamo dai rappresentanti di questo governo, di tutti i governi e di tutte le forze in Parlamento è che si prendano carico di questa responsabilità e che lavorino per rimuovere le barriere che dividono il nostro paese in figli di serie A e figli di serie B. Grazie a tutti, bella per voi. Italiani senza cittadinanza.